tempo non c'è di far la cacca o bere il caffè. Nel traffico in colonna ci perdo delle ore. Maledetto contadino, maledetto il suo trattore. Maledetta deviazione per gli scarichi fognari. Devo andare al capannone, devo fargli straordinari. La mia autoradio ha una sola canzone che fa: maledetto nord-est, terra del lavoro, dove il pile è troppo alto. Maledetto nord-est! Il prodotto interno lordo, tanto lordo non è. La partita IVA è partita perché il mio capannone in zona industriale non mi sembra tanto male. Con i raggi del tramonto la funzionatrice ha una sola nota che fa: maledetto nord-est, terra del lavoro, dove il PIL è troppo alto. Maledetto nord-est, maledetto. Adesso mi dir su a me. Biondo! Dime capo! Fala di cao e tulli la paella! Ma la paella ando era! E non stare lì con le braccia in pingolone! Ma non è mia vera che ne fa un caso! Tulli il muletto e cada sui bancai! Che sono là, mostizi, di stracantone! Ma chi ha il dono e c'è il muletto, capo? Mi sa che tu ti fai spanei! No, non è mia vera! L'arro! Dove il PIL è troppo alto.